Torre, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il Tribunale di Trieste, evacuato questa mattina per un allarme bomba, risultato infondato, traffico in tilt in città. Aggressioni a bordo del trasporto pubblico locale, tavolo a Udine, strutturali, i fondi per la sicurezza sussidiaria. Più tasse, avvertenze sanitarie in etichetta, il mondo del vino in allarme per il nuovo documento europeo. Chiusa e poi riaperta l'autostrada A28 tra Villotta e Azzano Decimo a causa di 3 incidenti in serie. Nei dati Istat il crollo demografico del Friuli Venezia Giulia in 5 anni per 657.000 persone. Pesce non tracciato, 250 kg sequestrati a Trieste e avviati allo smaltimento, multe per migliaia di euro. Illumino di meno, focus sulla moda usa e getta e poi quanto ci costa l'elettronica che usiamo ogni giorno. Il comune di Spilimbergo nell'associazione dei borghi più belli d'Italia è il 15° in regione. 12:31 minuti, buongiorno da Lara Zani e Rita Micoli, strade chiuse, traffico paralizzato. Poco dopo le 9:15 di questa mattina in via del Coroneo a Trieste le misure sono scattate in seguito ad una telefonata anonima che annunciava la presenza di una bomba nel palazzo del Tribunale. Le attività e le udienze sono state sospese e tutto l'edificio è stato evacuato, così come gli studenti delle medie del Dante prima e quelli delle superiori del Carducci Dante in via Giustiniano. Poco dopo sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, polizia di Stato e polizia locale che hanno formato un cordone di sicurezza per isolare la zona. I nucleo artificieri della polizia ha ispezionato l'intero palazzo di giustizia senza rinvenire alcun ordigno. Vigilanza privata e formazione del personale per contrastare le aggressioni a bordo dei mezzi del trasporto pubblico. I provvedimenti decisi dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, Udine. Duplice intervento per ridurre le aggressioni a bordo del trasporto pubblico locale su gomma grazie a fondi regionali. Da un lato, in provincia di Udine, l'azienda del trasporto pubblico locale si impegna entro aprile ad aumentare la vigilanza privata a bordo dei mezzi, non solo nelle tratte urbane ma anche in quelle extraurbane. Dall'altro lato sarà potenziato il programma di formazione in materia di sicurezza del personale viaggiante. Sono le principali misure di contrasto al fenomeno emerse durante il Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza convocato in prefettura a Udine. Nel 2024 sono state 50 le chiamate alle centrale dei carabinieri, per lo più aggressioni verbali, fortunatamente pochi gli episodi di una certa gravità. Abbiamo già stanziato in via straordinaria 9,9 milioni di euro con l'ultimo assestamento di bilancio e li abbiamo già erogati alle società del TPL, indica Cristina Mirante, assessore regionale alle infrastrutture e territorio, per inserire elementi fisici all'interno degli autobus oppure per un percorso di formazione degli autisti in collaborazione con la questura. Formazione utile anche per sapere cosa fare o cosa non fare in caso di provocazioni o tentativi di scontro da parte dei passeggeri. L'assessore regionale alla sicurezza, Pier Paolo Roberti, ha annunciato che finanziamenti sperimentali del 2023 e 2024 per guardie giurate armate a bordo degli autobus, per i comuni capoluogo e per Monfalcone, saranno resi strutturali, rientrando nel programma sicurezza annuale della regione. Si tratta di 500.000 euro annuali per la sicurezza sussidiaria, aumentabili se ce ne fosse la necessità, tenendo presente che nel 2025 si stanno ancora consumando poste di bilancio del 2023, quindi la copertura è garantita per tutto l'anno. Soddisfatti per gli impegni presi a questo tavolo da parte di tutti, afferma Patrizia Zambon, segretaria generale Will Trasporti FVG. Le fa eco Antonio Pittelli della FIT CISL. Gli strumenti da mettere in atto, sottolinea, ci sono tutti, ora chiediamo solamente un po' di velocità. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Ancora cronaca, verso le 9:30 di stamane è stato chiuso il tratto dell'autostrada A28 tra gli svincoli di Villotta e di Azzano Decimo in direzione Conegliano per 3 distinti incidenti accaduti all'altezza del comune di Azzano. Il bilancio di una persona ferita. Il tratto è stato poi riaperto alle 11:45 dopo che si sono conclusi i lavori di rimozione e bonifica della carreggiata. Il primo incidente, il più grave, al chilometro 12, due mezzi pesanti si sono tamponati abbandonati, uno dei due conducenti è rimasto incastrato nella cabina sul posto 118, vigili del fuoco e personale delle autostrade. Lungo la coda che si è formata per l'incidente si è verificata una seconda collisione tra due veicoli leggeri, quindi solo pochi minuti più tardi, a distanza di circa 500 metri, un altro sinistro tra altre due auto. In entrambi i casi non ci sono state gravi conseguenze. Per consentire l'arrivo dei soccorsi è stato però chiuso il tratto e si segnalavano ancora code tra Sesto Arreghena e Villotta. Preoccupazione nel mondo vitivinicolo del Friuli Venezia Giulia per le nuove proposte dell'Unione Europea per maggiori tassazioni e campagne dirette a disincentivare il consumo di vino. Anche in Friuli Venezia Giulia nuvole minacciose si stanno addensando sul mondo del vino e dire che le cose negli ultimi mesi stavano andando abbastanza bene. Nonostante due annate con produzione scarsa, compensate però dalle giacenze in cantina, gli ultimi dati dell'export hanno fatto segnare un più 4%, vale a dire 8 miliardi di euro, dei quali 140 milioni della nostra regione, con il Prosecco al più 7% e il Pinot Grigio al più 3%. Ma nelle ultime settimane, come se non bastasse il ciclone Trump con la sua grandinata di dazi, ora ci si mette anche l'Unione Europea con un nuovo piano per ridurre i consumi di vino e alcolici in Europa, considerati una delle principali cause dell'insorgenza del cancro. Non solo un nuovo regime di tassazione, ma una serie di provvedimenti volti alla disincentivazione al consumo di alcol. Li commenta Rodolfo Rizzi, già presidente di Assoenologi e direttore di una delle più importanti cantine operative della regione. La Commissione europea è ritornata veramente alla carica sul mondo del vino, volendo portare alla ribalta la pericolosità e quindi la preoccupazione che potrebbe innescare il cancro il consumo di vino, e vuole entrare con inserendo delle accise. Oggi ricordiamo che l'Italia ha accise zero e quindi vorrebbe portare delle accise uguali per tutti o se non altro aumentate. Poi vorrebbe addirittura mettere delle indicazioni come i pacchetti di sigarette sulle etichette del vino e quindi proprio fare un discorso deleterio per quanto riguarda l'immagine del vino. Vorrebbe addirittura combattere il commercio transfrontaliero e, non ultimo, bloccare anche la pubblicità per quanto riguarda i prodotti vinicoli. Evidentemente gli appelli al consumo consapevole non sono bastati. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora parliamo di demografia. Dal 2014 l'Italia perde abitanti, ad ogni lustro scompare l'intera popolazione di una città grande come Torino. Vediamo i numeri del Friuli Venezia Giulia. Dopo aver quasi sfiorato i 61 milioni di abitanti nel 2014, il massimo raggiunto nella storia della penisola, l'Italia da allora ha gradualmente iniziato a perdere popolazione. Al 1 gennaio 2019, secondo l'Istat, eravamo già scesi a 59 milioni e 816 mila abitanti. 5 anni dopo, a inizio 2024, 58 milioni 971 mila, circa 850 mila in meno. A questo ritmo, ogni lustro è come se perdessimo la popolazione di un comune grande come Torino, o se preferite come tutti i residenti delle province di Udine e Pordenone messi insieme. Le proiezioni al 2054 indicano che gli italiani si saranno ridotti a 50 milioni e per fine secolo a poco più di 35 milioni, quanti ce n'erano nel 1911, con la differenza che allora la popolazione italiana era giovanissima, con tanti bambini e ragazzi e pochi anziani, perché a pesare sempre più ogni anno che passa sul mondo del lavoro, sulla competitività del paese, sui servizi sanitari e sociali e anche l'età mediana. In Italia nel 2023 era di 48,4 anni, vale a dire che metà della popolazione italiana è più anziana e l'altra metà più giovane. Vane di così. Una buona notizia se si considera la longevità, una ulteriore pessima conferma invece sulla scarsità di bambini e ragazzi. Peggio di noi fa solo il Giappone. Per dare un'idea, un paese come la Nigeria, che dai 223 milioni di oggi schizzerà a fine secolo a quasi mezzo miliardo di abitanti, oggi ha un'età mediana di 19,2 anni, cioè un abitante su due è minorenne. Facciamo un paragone tra i due paesi. Uomini e donne con 70 anni d'età in Italia sono a spanne 700.000 su una popolazione sotto i 59 milioni. In Nigeria, la stessa categoria d'età, conta poco più di 400.000 unità, ma su una popolazione complessiva che è quasi il quadruplo della nostra. Quasi naturale, allora, per le aziende del territorio andare a cercare braccia giovani e cervelli freschi al di là del Mediterraneo, in Africa, nello specifico del nostro Friuli Venezia Giulia. Infatti, tra il 2019 e il 2024 la popolazione residente è scesa da 1.210.000 abitanti a 1.194.000. E se più colpite sono le aree periferiche come la montagna, interessata ormai da una vera e propria desertificazione, non sfuggono al fenomeno nemmeno le città. Tutti i capoluoghi di provincia sono in declino demografico. Emblematico il caso di Trieste, che nel 2021 è scesa sotto la soglia psicologica dei 200.000 abitanti, con un'età media tra le più alte d'Italia, 49,3 anni. Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Primo incontro ieri tra l'assessore allo sviluppo del personale del Comune di Udine, Andrea Zini, le rappresentanze sindacali unitarie, RSU e le sigle sindacali. L'incontro si è aperto con un approfondimento sui numeri. Nel 2024 sono state effettuate 101 assunzioni, tra cui 10 nuove unità nella polizia locale, segnando per la prima volta dopo molti anni un saldo positivo tra assunti e cessati. Il costo del personale comunale, che conta oltre 750 unità, è previsto in crescita, passando da oltre 41 milioni e mezzo nel 2024 a oltre 44 milioni 300 mila euro nel 2027. Il secondo punto all'ordine del giorno ha riguardato la firma del protocollo aperto per favorire il confronto tempestivo sulle questioni individuate dai sindacati, che prevede la convocazione di almeno due incontri annuali con la possibilità di richiedere tavoli straordinari. I militari della Guardia Costiera di Trieste hanno sequestrato circa 250 kg di prodotti ittici risultati privi di tracciabilità o scaduti. L'operazione è avvenuta nei giorni scorsi al termine di controlli lungo la filiera della pesca. In particolare, in un ristorante triestino è stato trovato del pesce privo di documentazione. Al titolare è stata inflitta una sanzione di 1.500 euro. Al valico di frontiera italo-sloveno di Rabuiese, invece, i finanzieri della compagnia di Muggia hanno fermato un furgone isotermico lettone a bordo di cui sono stati trovati 235 kg di prodotti ittici non conformi alle norme nazionali e comunitarie, di cui 225 kg di pesce non tracciato. Si trattava di pesce marinato, essiccato, caviale di salmone e storione beluga e 10 kg di gamberi con la data di scadenza superata. Il trasgressore in questo caso è stato multato per 1.500 euro per il prodotto non tracciato e 10.000 per quello scaduto. Tutto il pesce sequestrato sarà conferito a una ditta specializzata per lo smaltimento. E ancora Trieste, lavori in partenza lungo Viale Miramare. Viale Miramare, una delle principali direttrici di accesso alla città, sarà interessato per un mese da lavori di asfaltatura. Sono previsti contenuti disagi al traffico con la realizzazione dei soli restringimenti di carreggiata. I macchinari sono già in loco, opereranno dapprima tra l'imbocco della salita di Cedasmare e l'ex California Inn, dove saranno posati i primi 500 metri di asfalto nuovo. Questo è solo uno dei lotti che prevede il rifacimento dell'area da piazzale 11 settembre fino al bivio che porta al castello. In seguito il cantiere si sposterà per una settimana tra il bivio con la sala costiera e l'area parcheggio del parco di Miramare e poi nel tratto compreso tra la salita di Contovello e piazzale 11 settembre per la durata di due settimane. Il valore totale dell'appalto ammonta a 750.000 euro. L'asfaltatura di Viale Miramare è solo una delle opere di riqualifica nella zona di Barcola, già interessata dal rifacimento del lungomare grazie al contributo della Protezione Civile e della Pineta anche con il sostegno di CR Trieste. Andrea Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia. Oltre 21.000 confezioni di farmaci per un valore complessivo di 194.000 euro raccolte nelle 189 farmacie aderenti sono il bilancio in Friuli Venezia Giulia della 25esima edizione delle giornate di raccolta del farmaco di Banco Farmaceutico. A Udine provincia hanno aderito 92 farmacie e sono state raccolte 10.598 confezioni per un valore di 99.000 euro che aiuta aiuteranno 4.447 ospiti di 44 realtà assistenziali. A Pordenone provincia 45 farmacie in cui sono state raccolte 5.964 confezioni pari a 53.000 euro per 1.971 persone di 25 enti assistenziali. A Gorizia i farmaci raccolti sono stati 2.619 da destinare a 6 realtà, a Trieste 2.154 per 12 enti. E ora uno sguardo al tempo, cielo sereno su pianura e costa, da poco nuvoloso a coperto in montagna. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 4 gradi e 5 decimi, con vento da est-nord-est di Bora a 30 km orari, con raffiche a 65 km orari. A Gorizia 5 gradi, a Udine 4, a Pordenone 3 gradi e mezzo, a Tolmezzo 1 grado e mezzo, a Forni di Sopra 0 gradi, a Piancavallo e Sappada meno 2 gradi, a Tarvisio meno 4 gradi, sul Monte Zoncolà meno 3 gradi e mezzo, sul Monte Lussari meno 10 gradi e mezzo, a Grado 5 gradi, a Lignano 4. Ora le previsioni a cura dell'ARPA: nel pomeriggio cielo in prevalenza sereno, nel Tarvisiano probabile presenza ancora di nubi basse o nebbie, sulla costa e sulle zone orientali bora moderata, specie a Trieste dove potrà essere più sostenuta. Domani cielo in prevalenza sereno, congelate al mattino in pianura, nel Tarvisiano ancora possibile presenza di nubi basse o nebbie, sulla costa e sulle zone orientali bora moderata nella prima parte della giornata, in calo nel pomeriggio. Nel giorno internazionale del risparmio energetico abbiamo riflettuto sull'enorme quantità di energia necessaria all'era informatica. Basta un click e facciamo un pagamento, mandiamo mail, salviamo quantità enormi di foto e video nei cloud privati o pubblici dei social, interroghiamo l'intelligenza artificiale e tante altre attività quotidiane dell'era digitale. Un'era che richiede però enormi quantità di energia. L'informatica consuma il 5% del fabbisogno energetico mondiale. I dati sono dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. Con le tecnologie attuali il fabbisogno aumenterà ancora, ci spiega Martino Trevisan, professore di ingegneria informatica dell'Università di Trieste. L'informatica richiede una quantità di energia enorme perché si basa su tantissimi data center, più di 10.000 nel mondo, che sono costantemente accesi e che sono costituiti da decine o centinaia di migliaia di server, ovvero computer molto potenti, sempre accesi, che svolgono operazioni matematiche e che necessitano di essere raffreddati. Si stima che circa il 40% dell'energia che è necessaria a un data center sia dedicata al raffreddamento. Inoltre i data center spesso utilizzano acqua dolce per il raffreddamento, che viene prelevata fredda e rimessa calda nell'ambiente, con, diciamo, problemi anche dal punto di vista ambientale quando questo viene fatto oltre una certa misura. L'Irlanda, dove hanno sede quasi tutti i data center in Europa per motivi di tassazione e di temperature non troppo elevate, consuma il 20% del proprio fabbisogno energetico proprio per i data center. Il caro bolletta frena anche lo sviluppo dell'industria tecnologica, perché come abbiamo visto i data center per l'intelligenza artificiale, ma non solo, richiedono tantissima energia e quindi un paese con un costo della bolletta energetica molto alto ha implicitamente un freno agli investimenti anche in questo settore. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Parliamo di moda e del suo impatto sull'ambiente. Per rendere sostenibile il settore serve un cammino lungo e complesso, lo dice Barbara Franchin, presidente dell'ITS Arcademy, il museo archivio della moda contemporanea a Trieste. Soprattutto serve un cambiamento sia nella produzione sia nella mentalità dei consumatori. Un rapporto difficile quello tra moda e ambiente, un settore che inquina tanto da aver prodotto nel 2020 circa 270 kg di CO2 per persona. Ma non solo, secondo alcune stime diffuse dal Parlamento europeo, per fare una sola maglietta di cotone servono 2.700 litri di acqua dolce, cioè quanto beve una persona in 2 anni e mezzo. Tutta la produzione è responsabile del 20% di inquinamento di acqua potabile, un tema affrontato anche in occasione della giornata Mi illumino di meno. Il cammino verso la sostenibilità sostenibilità è complesso, spiega Barbara Franchine, fondatrice e direttrice dell'ITS Academy di Trieste. La chiave è produrre molto di meno. Le aziende hanno una produzione con sapendo che andranno a sopprimere almeno il 30-40, certe volte anche il 50% della produzione che fanno. Per cui già solo produrre meno e meglio sarebbe un passo importantissimo. Il cambiamento però deve avvenire anche nelle menti e nell'etica dei consumatori. E capire che abbiamo bisogno di poche cose, molto ma molto di meno di quello che compriamo e il quale... diciamo piacere dura veramente pochissimo. Io ricordo che mia nonna nel suo armadio aveva 4 camicie, 2 cardigan, un cappotto, un vestito elegante e null'altro. E quegli abiti le sono durati per moltissimo tempo. Tutto l'opposto del fast fashion, ossia la moda rapida del quasi usa e getta. L'obiettivo diventa vestire tutti, ma senza danneggiare l'ambiente. Dipende dalla volontà di tutti questi soggetti che ho citato, noi consumatori e i produttori. È assolutamente possibile. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. L'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale ha confermato l'incarico di Paola Del Negro come direttrice generale dell'ente. La decisione rinnova la fiducia nella sua guida e nel percorso di crescita che l'OGS ha intrapreso sotto la sua direzione. Negli ultimi anni, infatti, l'ente ha consolidato il proprio ruolo come punto di riferimento nel campo dell'oceanografia e della geofisica sperimentale, valorizzando competenze scientifiche, tecnologiche e gestionali all'avanguardia. Il mio impegno, ha commentato Del Negro, sarà quello di continuare a valorizzare le competenze del nostro personale, favorire la crescita dei ruoli più giovani e rafforzare le sinergie con il mondo accademico, istituzionale e industriale. Il CEFAP, Centro per l'Educazione e la Formazione Agricola Permanente, ha approvato il bilancio d'esercizio 2024. I numeri segnalano un miglioramento dei ricavi, una crescita dell'utile e del patrimonio netto. A crescere però è soprattutto l'attività educativa del centro, che nell'ultimo anno formativo ha erogato quasi 21.000 ore in 377 corsi, cui hanno partecipato 4.400 iscritti della regione. Con la consegna ufficiale della bandiera dell'associazione, il comune di Spilimbergo è stato accolto nell'Associazione Nazionale dei Borghi Più Belli d'Italia, che conta 15 paesi in Friuli Venezia Giulia. A dire il vero, non c'era bisogno che ce lo venissero a dire. Che Spilimbergo sia un piccolo grande gioiello di arte, di storia e di architettura già lo sapevamo. Edifici affrescati ed eleganti palazzi rinascimentali da sempre ne fanno uno dei luoghi più suggestivi del nostro paese. Ora però che la cittadina friulana è stata inserita nella lista dei borghi più belli d'Italia, l'auspicio è che possa essere più conosciuta a livello nazionale e internazionale e che aumenti anche il giro di turisti. Patrick Catania, presidente dell'Associazione di Commercianti Nuovo Corso. È uno strumento in più per far conoscere le realtà delle botteghe di Spilimbergo, sia commerciali che artigianali, che sono fatti di persone e a conduzione familiare, dove si possono trovare prodotti di qualità ricercati, ma soprattutto si ritrova quel rapporto umano che serve e che non si trova sulla grossa distribuzione. Sabato scorso la cerimonia ufficiale con la consegna al comune della bandiera dei borghi più belli d'Italia. La città del Mosaico è la 15ª località del Friuli Venezia Giulia a essere inserita in questo esclusivo club. Il sindaco di Spilimbergo, Enrico Sarcinelli. C'è stata una iniziale selezione, poi c'è stato il momento della candidatura, il momento della analisi, quindi i famosi 72 punti che sono stati certificati. I Borghi Più Belli d'Italia è una grande opportunità perché è un circuito che valorizza queste eccellenze a livello nazionale ed ha un coinvolgimento anche a livello mediatico importantissimo. Spilimbergo, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. E siamo alla musica, un concerto che passerà alla storia, quello di ieri sera a Trieste, di scena alcuni dei migliori musicisti jazz italiani riuniti su iniziativa di Stefano Bollani e sotto l'egida dell'Associazione Udinese Euritmica, il punto conclusivo di una residenza artistica di 5 giorni a Gorizia, che ha riempito i Rossetti lasciando tutti senza fiato il servizio. Non ci capiterà mai più di vedere così tanto talento su un palcoscenico solo. Ieri sera a Trieste è passata la storia del jazz italiano. Stefano Bollani, maestro di cerimonie, dal pianoforte, Enrico Rava e Paolo Fresu alle trombe, Daniele Seppe al sassofono, Antonello Salis alla fisarmonica, Arestavo Lazzi al basso, Roberto Gatto alla batteria. Accanto a loro le nuove leve, Frida Bollani Magoni alla voce e le chitarre di Cristian Mascetta e Matteo Mancuso. Un concerto che ha alternato formazioni variabili, dai duetti al classico quartetto jazz, fino ad un finale con tutta la compagnia protagonista e spunti musicali da tutto il mondo e da tutte le epoche, dal 600 in poi. Denominatore comune, la qualità di un supergruppo che in 5 giorni di tempo, in residenza a Palazzo Lantieri a Gorizia, ha costruito uno spettacolo perfetto. Ma dal palco, oltre ad una precisione tecnica da togliere il fiato, arrivava anche tutto il calore di un gruppo di grandi artisti che sono anche amici e che amano suonare assieme e ascoltarsi l'un l'altro. Davvero un evento del genere non ci capiterà mai più e sarà difficile ricevere altrettante emozioni. Trieste, Andrea Vardanica, TGR Friuli Venezia Giulia. Concludiamo con lo sport. Dal 21 al 23 febbraio Claute, Montereale e Valcellina ospiteranno nei rispettivi palazzetti dello sport le partite delle squadre maschili della Nations Winter Cup, evento internazionale di pallavolo under 16. Tra le squadre impegnate le nazionali di Germania, Ungheria, Repubblica Ceca, Giappone, Vojvodina Montenegro e i padroni di casa del Tinet Prata, il cui primo impegno sarà contro l'Ungheria alle 16. Il giorno seguente, sabato 22, si parte alle 9 con Tinet Prata Germania a Clout. Quindi i quarti e le semifinali, finalissima la domenica alle 14. È tutto per questa edizione del giornale Radio Regionale, in regia Andrea Fontanot e Paolo Cassano. In redazione ha collaborato Laura Sarasini, dalla Razzani Rita Micoli. Grazie per l'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.